controllare le donne. Insomma, i devianti maschi erano concepiti come criminali, mentre le devianti femmine erano considerate pazze. Il carcere femminile continua a essere permeato dai regimi che riflettono questo presupposto. Si continuano a distribuire psicofarmaci alle detenute in maggiore quantità che ai reclusi maschi. Per concludere, volevamo salutare con affetto tutte appunto le persone detenute che appunto sono private della propria libertà. Allora, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this. This is not really happening. fasten your seatbelts. Don't forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelts. Are on. 21:07, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Il palinsesto serale continua con prove tecniche di trasmissione. Consueto appuntamento del mercoledì sera, incentrato su un concetto ampio di elettronica e quindi comprensivo anche di industrial, dark ambient e quant'altro, fino alle 22:30 circa, allorché al nostro posto ai comandi ci sarà 25 o'clock, che vi condurrà fino nel cuore della notte. Per oggi 6 novembre 2013. 0649 1750, il sito internet è www.ondarossa.info, anche per sfruttare lo streaming e quindi un eventuale computer. Le comunicazioni mediante posta elettronica si possono fare scrivendo ondarossa@ondarossa.info e per questo spazio disorder@ondarossa.info. E alla fin fine andiamo a citare per l'ennesima volta il numero più importante, che è il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Volsci 56 00185 Roma. E dopo molto tempo ritornano i Boards of Canada, questo è Tomorrow's Harvest, un lavoro del 2013 dopo circa 7 anni di silenzio. Questo duo proveniente dalla Scozia, che ebbero una precarriera che si svolse soprattutto per i cosiddetti rave nei castelli scozzesi abbandonati, con tutte le suggestioni conseguenti, e poi qualcuno li obbligò, tra virgolette, ad incidere un qualcosa, fino ad approdare alla Warp, la Warp di Sheffield, etichetta di Aphex Twin, Outtaker e tanti tanti altri artisti di questo tipo di scena, un po' a metà tra IDM e Ambient. È già partita questa Jacquard Causeway, seguita da Cold Heart. We'll be right back. ormai considerati anche loro indiscussi maestri per quanto riguarda l'IDM, l'ambient, quasi al pari di Outtaker, che al contrario di loro negli anni hanno sviluppato una formula sonora decisamente più schizzoide e spezzata rispetto ai Boards of Canada, che invece hanno conservato questo loro lato crepuscolare che li accomuna per l'appunto soprattutto ai primi Outtaker. Or dunque ritornano con questo Tomorrow's Harvest, sempre con Warp Music, etichetta di Sheffield, dopo 7 anni di silenzio. E invece adesso ci trasferiamo immancabilmente a Schlangstrom. L'avremo qui per molto tempo, anche perché i gruppi sono interessanti di questa compilation e sono ben 2 CD, e ci permette anche di svariare e analizzare gruppi anche abbastanza diversi tra di loro. Questa sera ci andiamo ad ascoltare il primo gruppo del secondo disco, che risponde al nome di Red Sniper, che in realtà è una entità parallela ai ben più famosi Front 242, che qui c'è Patrick Codenins, uno dei fondatori del Front 242, mentre con Red Sniper sono abbastanza lontani da quelle pulsioni EBM, abbracciando un aspetto decisamente più sperimentale. Questa traccia si chiama Afraid of Loneliness, scusate. E dopo invece ci sarà una collaborazione tra Mercy Design, sorta di mega orchestra che però si diletta in musica più o meno contemporanea, insieme a Jack November, cantautrice dal profilo avanguardista, e insieme fanno una traccia che in realtà non ha un titolo, ma si chiama semplicemente Untitled. Anche per oggi due tracce estratte da questo Schlangstrom volume 7. Per due progetti che sono stati protagonisti anche dell'ultima edizione svoltasi a Berlino all'inizio di questo ultimo agosto. E ci andiamo ad ascoltare invece un altro artista, questa volta italiano, che invece ha suonato in passato allo Schlangstrom. Trattasi di Sunblasting, fondato da Luca Torasso, proveniente da Torino, e punto di forza della Razblade, etichetta italiana, soprattutto un tempo specializzata in rhythmic noise e breakcore. E Sunblasting è rimasto uno dei pochi esponenti sia in Italia e sia soprattutto per questa etichetta che porta avanti con tenacia questo tipo di sonorità. Questo è il suo quarto lavoro dal nome Dread, e dal primo CD ci ascoltiamo la title track, per l'appunto Dread, e la successiva Warfare. Someone once wrote that no man can know his own death, but to know the death of others, intimately, to watch the tricks that the mind would surely perform to avoid the bitter truth, that was a clear death's picture. questa ce l'ascolteremo la prossima settimana. The Kennedys, campionati da dal nostro Sunblasting, protagonista indiscusso ormai della scena tech noise italiana, con questo suntuoso e doppio CD dal nome Dread, un primo CD con tracce originali e un secondo con i conseguenti remix di vari personaggi a me noti: Guys for Mash, Monolith, Ambassador 21, World News Island ed altri. Anche questo è un album che andremo a conoscere meglio anche nelle prossime settimane, al pari del prossimo doppio lavoro e vecchio lavoro dei Killian Camera di Angelo Bergamini dal nome Solaris, The Last Corridor. Probabilmente l'apice della carriera di questo gruppo, che proprio intorno alla metà degli anni 90, a mio modesto giudizio, raggiunsero la loro fase migliore dal punto di vista creativo. Dal primo CD ci ascoltiamo Heaven's Corridor, Dying Culture, e la successiva The Theater of Dreams. passaggio è in parte anomalo per quanto riguarda i Killian Camera, da questo Solaris The Last Corridor, un passaggio vibrante tecnoide come non capita poi spesso per i Killian Camera di Angelo Bergamini, e in questa occasione Emilia Lo Iacono alla voce, Simon Balestrazzi, Ivano Gizzi. Questa era la vecchia formazione intorno alla metà degli anni 90 per Killian Camera, una formazione che poi ha avuto diversi cambiamenti, in primis la voce femminile di Elena Alice Fossi. Salto neosinfonico e marziale appartenente al francese Auschwald. Questo è Pagan Theory, oggi ci ascoltiamo Autocrati e Sons of Duty. E sugli Auschwalt andiamo anche a salutare Alicia Sardina,